ampio cuore, un sospetto amoroso, un pensiero geloso, crucia l'anima mia col suo rigore. Sua rivale mi crede, accessio veia, quel timor che t'affanna, amo ingiustino, senza vena dell'alma, il pregio del valor, ma non il desio. Anzi, nel suo destin, sospiro il mio. Non ti intendo, ma sappi che il tornò trionfante, pari non è, sciolti ad augusta i ceppi. Oimè, che ascolto? Ma, o ciel che mio, augusta noi sapessa. Cieli, che mai sarà, al certo ed essa.